Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti dunque all'appuntamento con l'informazione consueta alle ore 13, effetto giorno, e come sempre dunque partiamo da quelli che sono i titoli. Una svolta dal Vaticano, il Papa apre per i sacramenti ai risposati e dice mai discriminare gli omosessuali. Sicurezza dello Stato, espulso nella notte un marocchino regolare di 32 anni che si era avvicinato all'ISIS. Stampa rossa al capo di Stato Maggiore della Marina, chiede di essere ascoltato dai PM. Dimezzato l'arrivo di migranti in Germania, l'Austria pronta a blindarsi, vertici a Roma, infine Del Rio sotto attacco potrebbe essere sentito dai magistrati, secretato il verbale dell'ex ministra Guidi. Dunque, Vaticano, oggi la nostra apertura, i siti, non solo italiani, aprono perché ci sono notizie importanti, un documento ampio, quasi enorme direi, ma noi ovviamente cerchiamo di farne una sintesi e lo facciamo con Katia Caramelli. Sì, buongiorno. Amoris Laetitia, si intitola così la tanto attesa esortazione post-sinodale del Papa. È un testo che tira le somme, in effetti, dei due sinodi, quello ordinario e quello straordinario sulla famiglia, riuniti nell'ottobre 2014-2015. Tre potremmo sintetizzare le parole chiave di questo testo molto ampio: la misericordia, il discernimento e l'inclusione. La dottrina sul matrimonio è un ideale irrinunciabile, ribadisce il Papa, che chiede un'autocritica alla Chiesa per come fino ad ora è stato trattato l'argomento, e tuttavia Francesco, e questa era la parte più attesa, non dimentica le fragilità ed i fallimenti. Non ci si poteva aspettare, ha ricordato il segretario generale del Sinodo Lorenzo Baldisseri, una norma generale di tipo canonico sui casi cosiddetti regolari, quindi applicabile a tutti i casi, che pure qualcuno aveva auspicato. I casi sono infatti diversi e occorrerà ha spiegato il Papa, il discernimento caso per caso. Ma sentiamo Baldisseri. E dal momento che, come il Sinodo ha affermato, il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, occorre procedere con un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari. I battezzati che vivono in una seconda unione devono essere integrati e non esclusi. L'esortazione al riguardo è molto chiara. La loro partecipazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali, occorre perciò discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate possono essere superate. Si discernerà, abbiamo sentito Baldisseri, dunque caso per caso. Attualmente, lo ricordiamo, ad esempio, i divorziati risposati hanno dei divieti, come quello di fare i catechisti o i padrini di battesimo. Si valuterà, laddove ce ne fossero le condizioni, anche se non si cita esplicitamente, la riammissione alla Eucaristia. Nessuno, ribadisce comunque il Papa nel testo, infatti può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo. Nel testo si evince anche una timida, anche se non piena, apertura per i matrimoni civili e le convivenze, non però per i matrimoni omosessuali. A riguardo invece si ribadisce la linea emersa negli ultimi tempi, si dice cioè che ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, deve essere considerata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione, particolarmente ogni forma di aggressione e violenza. Questo dunque in estrema sintesi il testo di oggi. Naturalmente, grazie a Katia Caramelli, estrema sintesi, perché come dicevamo è un documento complesso, nel segno, come abbiamo sentito, di questo pontificato dell'apertura. Ci torneremo e adesso cambiamo decisamente tema. La prima notizia che vi do è quella di un'esecuzione di espulsione per ragioni di sicurezza dello Stato. Si tratta di un marocchino di 32 anni, entrato in Italia nel 2013, regolarmente residente in Italia. È stato espulso, ha spiegato il ministro dell'Interno Alfano. Dopo una serie di indagini, dice, abbiamo accertato con chiarezza il suo processo di radicalizzazione religiosa in atto. A dicembre aveva aggredito un minore ai carabinieri intervenuti, si era dichiarato vicino allo Stato islamico. Questo dunque per la cronaca che invece prosegue con gli incontri che riguardano i grandi temi della migrazione. Allora direi di sentire insieme il servizio di Alessandra Schepisi. Garanzie sui controlli alle frontiere meridionali e sulla funzionalità degli hotspot è questo che Johanna Mikl-Leitner, ministro austriaco dell'interno, vuole ottenere dal collega italiano Angelino Alfano. Capire insomma se e come l'Italia si sta attrezzando per gestire quello che secondo l'Austria sarà un flusso senza precedenti. Le stime parlano di 300.000 arrivi nel 2016 dalla rotta mediterranea, nel nostro paese il doppio rispetto al 2015, e di conseguenza migliaia di migranti pronti ad attraversare il valico del Brennero. Un confine che dunque potrebbe essere sigillato da Vienna nei prossimi mesi in mancanza di garanzie, ma il Viminale sospetta che le stime sugli arrivi di migranti siano usate strumentalmente da Vienna come pretesto per evitare la redistribuzione dei profughi decisa dall'Europa, una chiusura che potrebbe avere anche importanti ricadute economiche, visto che attraverso la direttrice del Brennero transitano interscambi commerciali pari a 140 miliardi di euro l'anno. Intanto dalla rotta balcanica arrivano sempre meno profughi. In Germania si è passati dai 500.000 del terzo trimestre 2015 ai 170.000 del primo trimestre 2016, tant'è che la Germania sta pensando di abolire da maggio i controlli alle frontiere introdotti a settembre. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. I flussi dunque cambiano come normale e le comunicazioni delle diverse politiche che vengono assunte dall'Europa naturalmente ripercorrono all'inverso, da un lato la rotta balcanica, dall'altro la rotta del canale di Sicilia, dove proprio in questi giorni, vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, la politica italiana ed europea è impegnata anche per la ricostruzione di un'unità governativa in Libia. E restando invece nel sud del Mediterraneo, ma in una chiave del tutto romana in questi giorni, andiamo a vedere a che punto è il dialogo difficile, drammatico, visto lo spunto di partenza sull'omicidio Regeni. Andrea Viali. Dopo la delusione lasciata trapelare ieri dalla parte italiana, a Roma, nella Scuola Superiore di Polizia, riparte il confronto sulle indagini per l'omicidio di Giulio Regeni. La delegazione egiziana si è presentata poco dopo le 10 per quella che potrebbe essere la giornata decisiva. Al termine del vertice è attesa una nota congiunta, ma secondo la stampa egiziana non è escluso che l'incontro possa andare avanti anche nei prossimi giorni. Stando a quanto trapelato finora, i documenti portati ieri dal team inviato dal Cairo sarebbero stati giudicati insufficienti dai nostri inquirenti. Nel dossier mancherebbero elementi ritenuti fondamentali come l'analisi delle celle telefoniche del quartiere dove il ricercatore viveva e della zona dove è stato ritrovato il suo corpo. Non sarebbero emersi dettagli utili anche dalle immagini riprese da alcune telecamere di sicurezza portate ieri dalla delegazione egiziana assieme ai verbali di alcuni interrogatori che dovranno essere tradotti dall'arabo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Insomma, su questo fronte ancora non ci siamo né potremo mai esserci completamente, visto appunto, lo ricordiamo, la morte orribile di Giulio Regeni. Di sicuro ancora non ci siamo, nel senso che non ci sono indicazioni precise di responsabilità da parte dell'Egitto. Altro genere di inchiesta invece quella che riguarda i petroli. Da una parte il centro Oli appunto nella Val d'Agri, Tempa Rossa, due inchieste che corrono distinte e parallele per molti versi. Sentiamo il servizio di Raffaella Calandra. Lette le ultime intercettazioni, il capo di Stato Maggiore della Difesa, indagato, interrompe il silenzio. Chiedo di essere sentito dai PM, non c'è alcun interesse privato, fa sapere attraverso il difensore. Portano dai pontili di Augusta alle stanze dei ministeri le accuse a carico dell'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, in un incrocio tra lo sblocco dei fondi navali e gli appalti a favore di Gianluca Gemelli, ormai ex compagno dell'ex titolare dello sviluppo economico e a favore del suo quartierino di furbetti. Tutto il gruppo si muove nel maggio 2015 per evitare la sostituzione al vertice dell'autorità portuale di un manager considerato amico, Alberto Cozzo, e lo fa attraverso il vicepresidente di Confindustria, Ivan Lobello, sulla base, annotano gli investigatori, dei rapporti esistenti col ministro Del Rio e allo scopo, si legge, di trasformarli a proprio vantaggio. A Gemelli, che nelle intercettazioni si scaglia contro nomi noti dell'antimafia che andrebbero eliminati, sbotta, la cricca si rivolgeva per sollecitare l'allora ministra Guidi all'approvazione della legge legge navale. Ecco una delle pressioni confermate davanti ai PM di cui si lamentava col padre di suo figlio. Ma come già pure le prime carte dell'inchiesta rivelavano, non è l'unico membro del governo citato. Si parla pure della ministra Boschi, già sentita, della Madia e della titolare della difesa Pinotti, oltre che ovviamente dello stesso Delrio, il cui caso di presunto dossieraggio subito potrebbe diventare presto una nuova storiaccia a parte. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora i Panama Papers, un grande dossier di evasione fiscale che continua a produrre notizie. Le prove di eventuali fatti illeciti ancora non ci sono. Nel frattempo a pagarne le conseguenze sono soprattutto i capi di Stato e di Governo. Prima è stata la volta del premier islandese. Ha tentato di resistere, poi ha gettato la spugna rassegnando le dimissioni. Ieri è stata la volta di David Cameron. Il primo ministro britannico non si arrenderà, soprattutto a pochi mesi dal referendum sulla Brexit, ma ha dovuto ammettere davanti alle telecamere che sì, aveva quote della società offshore di suo padre. Quote vendute a inizio 2010, prima di diventare primo ministro. Nottata difficile anche per il neo presidente argentino Macri. Ho rispettato la legge, non ho niente da nascondere, ha detto anche lui di fronte alle telecamere. Che ha salito e che mi ha involucrato a me. Il nome di Macri è comparso nei registri di due società offshore. Il presidente argentino ha dichiarato di non aver ricevuto alcun compenso in qualità di direttore delle società. Gli argentini però sono scesi in piazza chiedendo le dimissioni del presidente. I nomi noti di casa nostra fanno fronte comune e negano. I legali sono al lavoro per rigettare ogni coinvolgimento. Carlo Verdone, Barbara D'Urso, Valentino, Luca Cordero di Montezemolo. Questi i nomi più noti. Ma la lista è lunga e comprende, per esempio, anche i figli di Vito Roberto Palazzolo, finanziere condannato per riciclaggio dei soldi di casa nostra. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso facciamo uno stacco dalla cronaca. Carlo Genta mi ha raggiunto in studio. Tra meno di 50 minuti, naturalmente, l'appuntamento con tutti i convocati per parlare di... Di calcio, che è quello... No, ma anche di altro, non solo di calcio, anche perché c'è il Moto Mondiale domenica. Ah, ecco. Quindi parleremo di un sacco di cose. Appassionante. Però anche se siamo alla fine di una settimana in cui si è parlato più di arbitri e di politica che non di pallone, sarebbe il caso, anzi è il caso di ricominciare a farlo, anche perché domani ci sono quattro partite, sarà un grande sabato del villaggio che si chiuderà domani sera a San Siro con Milan-Juventus, grande classica del calcio italiano, non equilibratissima in questo momento, partita che sarà preceduta però da altre tre gare. Apre l'Inter alle 15 giocando a Frosinone, quindi Chievo-Carpi e Sassuolo-Genoa, non esattamente due partitissime, alle 18, però questo è l'aperitivo appunto per Milan-Juventus. È chiaro che si attende poi una reazione del Napoli, che giocherà domenica alle 15 in casa con il Verona, come tutti sappiamo, senza Higuain. Vediamo cosa combina la Roma, che giocherà col Bologna invece lunedì, quindi una giornata di campionato spalmatissima, ma questo ormai siamo abituati. È importante, è chiaro, domani sera vedere questo Milan-Juventus per capire se la Juventus riaggiornerà il record. Ricordo che siamo a 21 vittorie su 22 partite. Davvero impressionante, in più difficile dimenticare l'inizio del campionato, poi partenza davvero impressionante. Carlo Genta, poco dopo le 14, naturalmente tutti convocati. Noi adesso invece andiamo a Parma per parlare di imprenditoria, il ruolo degli imprenditori nella società, ma anche l'attualizzazione di questo ruolo, ovviamente un compito che fa parte del nostro DNA. Partiamo da una ricerca realizzata dal Centro Studi di Confindustria per le due giornate del convegno biennale di Confindustria che si apre tra circa un'ora a Parma. Come uscire dalla crisi e rendere la crescita strutturale? Come traghettare quindi la società italiana verso una realtà più dinamica e tecnologica? A queste domande si cercherà di dare una risposta oggi e domani nei lavori del convegno biennale del Centro Studi di Confindustria. Punto indiscusso di partenza è il ruolo degli imprenditori, che rivendica l'Associazione di Viale dell'Astronomia, sono e sono stati sin dalla rivoluzione industriale il motore del cambiamento e dello sviluppo economico. Risorsa essenziale per combinare lavoro lavoro e capitale. Come sta cambiando allora il rapporto tra imprenditori e imprese? Le imprese familiari sono un punto di forza o una debolezza del sistema paese? Nel cammino verso il rilancio del progetto Italia, dice Confindustria, è finito però il tempo di impegni isolati ed eroici racconti. Da qui la necessità che nello sforzo verso la ripresa vengano coinvolti tutti i soggetti, lavoratori, risparmiatori, cittadini e consumatori. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parma. E a proposito di DNA, adesso parliamo invece di radio. Radio City fa infatti tappa a Milano. Ci sono quelle che avete tutti memorizzate nell'autoradio. Ci sono le più lontane e le più insolite. Una radio di studenti di Springs, New York, una delle migliori radio universitarie d'America. Una radio giovane di Mosca, la radio che trasmette dalla sede della metropolitana di Tokyo in 9 lingue. All'Unicredit Pavilion di Milano, 20 radio internazionali e 50 italiane che per 3 giorni, da oggi fino a domenica, trasmettono nella seconda edizione di Radio City, che da quest'anno diventa IRF, International Radio City Milano, cioè il Festival Mondiale della Radio, dopo il matrimonio con l'analoga manifestazione di Zurigo. Incontri, interviste, concerti, workshop e ovviamente le star della radio e tanti artisti: Giusy Ferreri, Giovanni Caccamo, Zero Assoluto, Francesco Gabbani, Stefano Bollani e Iperturbazione con Andrea Mirò. Per incontrare Radio 24, oggi dalle 19 uno speciale Tutti Convocati con Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Domani, la mattina, con la rassegna stampa Con le voci del mattino, c'è anche Alessandro Milan. Alle 19.30 l'evento live con Gianluca Nicoletti, La radio è morta, la radio è risorta. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grazie a Marta Cagnola, sono le 13.15, adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio, poi ripartiamo da Bruxelles con la nostra Maura Bertanzon che ci aggiorna, lo ricordiamo, 22 ovviamente del mese scorso, il tragico attacco multiplo terroristico, gli aggiornamenti subito dopo la viabilità. Effetto giorno. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelli quando sono le 13.18 minuti in questa istante. I titoli principali ci raccontano della svolta del Vaticano. Il Papa apre i risposati, dice mai discriminare gli omosessuali. L'inchiesta Tempa Rossa, il capo di Stato Maggiore della Marina chiede di essere ascoltato dai PM. Di migrazione, dimezzato l'arrivo di migranti in Germania. Intanto l'Austria è pronta a blindarsi, ma anche di sicurezza dello Stato. Espulso nella notte un marocchino regolare di 32 anni che si era avvicinato all'isola. Se come avete sentito prima di questa della interruzione, e meglio delle notizie sulla viabilità, ho convocato, mi viene in mente Carlo Genta, ma insomma ho chiesto a Maura Bertanzon da Bruxelles di essere con noi. Buongiorno Maura, intanto. Buongiorno a voi. Per parlare allora di inchiesta, perché il 22 di fatto, o forse il 23, veramente poche ore dopo il disastroso duplice attacco aeroporto metropolitana, si comincia a parlare del terzo uomo, immediatamente addirittura un fermo. Insomma, a che punto siamo sul fronte delle indagini e della ricerca del terzo uomo? Ma direi che possiamo riassumere in due parole, impasse e discrezione, il punto sull'inchiesta. L'impasse proprio riguarda la notizia di ieri, perché la procura belga ha diramato questo avviso di ricerca su questo terzo uomo, il famoso uomo con il cappello, cioè segno che ancora non si sa bene chi sia. È stata fatta una conferenza stampa dove è stato mostrato però un video che ricostruisce i suoi movimenti appena dopo le due bombe esplose a Zamelten. Si vede appunto quest'uomo che esce dall'aeroporto a piedi, attraversa la città di Zaventem per arrivare a piedi nel centro di Bruxelles, proprio nel quartiere, diciamo, che è quello europeo, perché scompare all'incrocio tra due vie che sono a distanza di 10 minuti a piedi dalla rotonda Schumann e dalla stazione di Malbec dove c'è stato il secondo attentato. Quindi diciamo questo un avviso di ricerca che invita chiunque abbia immagini e video a segnalare cose utili per le indagini. Questo è il primo punto. Ecco, il punto che dunque ci riporta di fatto al punto di partenza, la ricerca continua. Un altro aspetto che in qualche modo è emerso all'immediato indomani appunto degli attacchi terroristici, ma che per molti l'ha anche innescato, è la figura di Salah. Allora, Salah naturalmente fuggiasco degli attentati invece francesi del 13 novembre, catturato e pochi giorni prima di quello che molti molti definiscono l'attacco anticipato, quindi che secondo appunto varie fonti doveva essere lanciato su Pasqua e che invece è stato anticipato il 22. Ecco, a che punto siamo su Salah? Per Salah è stato confermato ieri che resterà in Belgio per ancora molte settimane. La Camera di Consiglio ha confermato il suo arresto belga. Il suo avvocato Sven Marie ha detto che molto probabilmente non sarà sentito sui fatti di Bruxelles, sugli attentati del 22 marzo, ma gli inquirenti belgi vogliono comunque proseguire il dossier che riguarda soprattutto il blitz nel quartiere di Forêt che c'è stato martedì 15 marzo, quindi a 3 giorni dal secondo blitz che ha portato poi al suo arresto a Molenbeek. Quindi c'è una conferma sulla sua detenzione che probabilmente farà allungare appunto un po' i tempi del suo passaggio in Francia. Contestualmente a questo hanno però anche confermato tra ieri e oggi molti degli arresti, quindi delle detenzioni di complici che erano stati arrestati o a fine novembre dopo i fatti di Parigi o a qualche giorno dagli attentati, e quindi che sono ritenute persone che in qualche modo possono aver aiutato il fratello Bakraoui nel loro progetto di attentato. Ecco Maura, tra francesi e Belgio in particolare, tra Parigi e Bruxelles, insomma ci sono state parecchie tensioni, cosa peraltro ovvia visto il dolore, il dramma, il sangue versato in entrambe le città, e naturalmente entrambi si sono accusati di non comunicare. Ho visto che ci hai segnalato degli incontri, insomma dei tentativi di superare questo aspetto. Sì, ieri e oggi è in visita qui a Bruxelles una commissione parlamentare francese di 7 parlamentari per la lotta al terrorismo. Questo ha fatto subito un po' sollevare sia i giornali che l'opinione pubblica, dicendo ma la domanda di fondo è ma cosa vengono a fare, cosa vengono a insegnarci. Ecco, nella dichiarazione di intenti di questi parlamentari proprio hanno detto non vogliamo stigmatizzare, non vogliamo dare lezioni, ma solo il nostro sostegno. Ieri hanno incontrato il corrispettivo della commissione parlamentare belga di l'inchiesta sul terrorismo e anche il procuratore federale. Oggi stamattina proprio sono andati a Molenbeek, il quartiere è un po' simbolo appunto al centro delle cronache in questo periodo. Hanno incontrato il sindaco di Molenbeek, che da parte sua ha detto non abbiamo niente da nascondere, anzi stiamo facendo tutto il possibile, siamo responsabili dei controlli di polizia ma anche i controlli sui domicili, sulle attività di tutti coloro che possono in qualche modo essere non dico sospetti, ma appunto che potrebbero essere collegati magari a qualcosa al radicalismo islamico. Grazie a Maura Bertanzone. Le chiederei una percentuale in chiusura. Bruxelles è ritornata alla normalità su una scala 100? Ma forse un 75%. Le metropolitane sono ancora a singhiozzo, chiudono alle 19, ci sono i militari a controllare le fermate sotterranee. Grazie a Maura Bertanzone per questo ulteriore chiarimento. E noi adesso da Bruxelles invece facciamo un balzo proprio attraverso l'Europa, perché andiamo a Viggiano Basilicata, uno dei posti più belli peraltro del nostro paese, già bello ampiamente, non vorrei dire per definizione ma per i fatti, quando non si danneggia in particolare. La Val d'Agri, dunque, una strada che poi porta a sud per chi l'ha percorsa, come fanno tanti turisti, verso la Calabria, ma anche il centro di preoccupazioni e complessità. E naturalmente mi riferisco al doppio filone d'inchiesta, da una parte abbiamo detto Tempa Rossa, dall'altra Eni Val d'Agri. Allora abbiamo il sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora sindaco, piccolo promemoria appunto per tutti gli italiani. Viggiano quanti abitanti ha? Viggiano 3.300, anzi dagli anni 60 non superava i 3.300, che li ha superati proprio in quest'ultimo anno, quindi un paese in crescita. Nella Val d'Agri siete in qualche modo la capitale, tra virgolette, dell'attività Eni, perché c'è il centro Oli, è giusto? Sì, è corretto, sì. Quindi un impianto industriale importante che naturalmente in qualche modo irradia l'attività. Dalle royalty e quindi da questa storia di rapporto tra petrolio e popolazione, quanto beneficiate? Dipende dal prezzo del barile, ma chiaro, siamo passati da un massimo di 18 milioni di euro nel 2014 a quest'anno che si preannuncia amaro, perché le royalty si sono ridotte, il prezzo del barile è sceso, dovremmo essere sotto i 10 milioni di euro. Ecco, nel filone, dicevo l'altro filone rispetto a Tempa Rossa, quello appunto dell'Eni, viene coinvolto direttamente il centro Eni di Viggiano, arresti domiciliari per 6 persone. Allora, voi vi siete trovati di fatto nell'epicentro di questo sisma di indagini. Qual è l'effetto immediato? Intanto la produzione continua o è ferma? No, ad oggi è ancora ferma. C'è da dire che questi allarmi o comunque queste situazioni che non andavano sotto il profilo diciamo della sicurezza e sotto il profilo dell'aspetto ambientale, sotto l'aspetto sanitario, noi l'abbiamo evidenziato come amministrazione, perché siamo innanzitutto un'amministrazione, tengo a precisare, in discontinuità politica e amministrativa con le precedenti 20-25 anni di amministrazione a Viggiano. E in più questa amministrazione negli ultimi anni... Discontinuità perché siete, ci dica, non c'è, non è pubblicità. Siamo un'amministrazione civica, sì, innanzitutto, okay, ma incompleta, perché come dire, non ci vedevamo chiari su alcuni temi. Perfetto. E più di qualche volta lo abbiamo denunciato al governo centrale, al governo regionale, ma anche per quanto riguarda, diciamo, i controlli devono essere migliori. Ecco, cos'è in particolare che non vedete chiaro? Ma non vediamo chiaro perché il centro Oli, che si trova proprio nel cuore della Val d'Agri, in una zona ampiamente antropizzata dove vi sono delle aree rurali vicine abitate appunto, centro Oli stesso più di qualche volta ha mostrato delle anomalie o degli incidenti che hanno causato per primo naturalmente una qualità della vita bassa, ma poi anche il dubbio che poteva quelle anomalie e quegli incidenti potevano inquinare. Più di qualche volta come amministrazione abbiamo sollevato dei dubbi su dette questioni. Proprio 15 giorni fa, prima che usciva appunto l'inchiesta, un mio comunicato, una mia nota dove chiedevo che vi doveva essere un maggior controllo e maggior approfondimenti, anzi addirittura chiedevo una rivoluzione nei controlli, che dovevano essere dei controlli un po' più forti, proprio perché avevamo dubbi che le cose non stavano così come ci venivano esposte anche dalla non andassero per il verso giusto. Dottor Ciccala, una domanda: lei si considera un no oil, cioè lei è contrario in linea di principio allo sfruttamento del petrolio? No, io sono per le regole giuste, io okay, sono perché ogni attività che si faccia nel rispetto della norma. Io ho uno studio legale, bene, viene chi mi deve fare il controllo e vedo se rispetto la norma. A maggior ragione quando si tratta di materia ambientale, noi chiediamo che si deve operare, ma si operi nel rispetto della legge, nel rispetto delle normative. Quindi la Val d'Agri, a suo avviso, ha un futuro nell'oil, nel petrolio, ed è questo compatibile anche con il resto, col turismo, con l'attività zootecnica? Questa è una bella domanda, io le rispondo in questo modo. Oggi il petrolio, l'indotto, noi siamo sotto un profilo socio-economico legati. Se domani chiude, diciamo, l'indotto Eni, abbiamo dei seri problemi sotto un profilo socio-economico, perché una parte della valle è in dubbio che lì prende, diciamo, il reddito. C'è anche da dire però questo, che oggi secondo me la Val d'Agri, Viggiano in particolare, è arrivata al punto limite anche per far sopravvivere gli altri sistemi economici che in Val d'Agri sono importanti, tra cui anche la zootecnia. E quindi è arrivato il momento in cui noi dobbiamo porci questa domanda, e la mia risposta da sindaco è questa, e cioè siamo arrivati al limite, oltre non possiamo andare, oltre la produzione che già è stata fatta, perché spesso sento parlare sempre di maggiori produzioni che vogliono fare in Val d'Agri e che il governo centrale va verso quella direzione, anzi addirittura non ascoltando quella che è la voce dei territori, dove noi lanciamo l'allarme e diciamo attenzione, un'ulteriore produzione può arrecare dei danni enormi ad altri sistemi economici e comporterà che ciò una distruzione degli altri sistemi. Chiarissimo, sindaco, la ringrazio e la ringrazio di essere stato con noi. Ricordo a Medio Ciccale, il sindaco di Viggiano di fatto è la capitale anche tecnica e tecnologica della Val d'Agri, ed è per questo importante anche sentire il parere di chi appunto vive le realtà locali. È tutto per questo blocco. Effetto giorno. Ancora un buongiorno da Alessandro Longoni, da Filippo Aureggi, da Gigi Donelli al microfono. I titoli oggi ci dicono della svolta dal Vaticano, il Papa apre ai risposati, dice mai discriminare gli omosessuali, di sicurezza dello Stato espulso nella notte un marocchino regolare di 32 anni che si era avvicinato all'ISIS, ma anche dell'inchiesta Tempa Rossa, il capo di Stato Maggiore della Marina chiede di essere ascoltato, mentre sul fronte europeo dimezzato l'arrivo di migranti in Germania, intanto però l'Austria è pronta a blindarsi. Questi principali titoli, adesso la borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Effetto Giorno. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, quando sono le 13.36 minuti. Abbiamo sentito parlare poco fa anche Chiara Di Cristoforo, usava l'espressione nell'occhio del ciclone, il sindaco che ci parlava dei problemi ambientali e naturalmente il riferimento era agli sversamenti, a tutte le problematiche legate all'attività industriale in generale, al di là di quella petrolifera naturalmente nello specifico. Beh, sono tutti elementi che ci in qualche modo ci introducono al nostro prossimo ospite. Allora, prima gli faccio una domanda e poi ve lo presento. La domanda è questo, ingegnere, così vi do un incipit. È possibile osservare uno sversamento, un fenomeno di inquinamento dallo spazio? Insomma, possiamo osservarlo se magari è sottoterra o addirittura nascosto? Buongiorno a lei e agli ascoltatori. La risposta è sì, non soltanto possiamo osservarlo, ma i satelliti, in particolare il satellite di cui parleremo tra breve, spero, quello che lanciamo il 22 aprile, quel tipo di satellite è praticamente l'unico sistema, il sistema migliore per diciamo così, osservare questi inquinamenti in mare. Guido Leverini è responsabile, il program manager di ESAS per il programma Copernicus. Allora, grazie, come dire, di aver accettato questa risposta a secca, visto che il tema, appunto, che non avevamo organizzato, però parlando di petrolio viene naturale appunto pensare a quello che è uno degli aspetti principali del lavoro della nuova generazione di satelliti per l'osservazione della Terra. Allora, ingegner Leverini, che cos'è Copernicus? Allora, lei l'ha detto già, Copernicus è un sistema operativo di sorveglianza ambientale dallo spazio, è un sistema europeo frutto della cooperazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e la Commissione Europea, e sono orgoglioso di dire, di sottolineare che l'Europa è la prima al mondo ad avere un sistema del genere. Al momento nessun'altra grande potenza, grande attore spaziale al mondo ha niente di simile. Copernicus è anche una storia, direi, scientifica, di ingegneria industriale ormai di lungo corso. Come accennava il 22, il lancio di un importante nuovo sguardo, appunto, le sentinelle sul nostro pianeta. Ecco, abbiamo accennato brevemente all'ipotesi di controllare sversamenti, ma quali sono i compiti principali, insomma, per quali sono stati progettati questi satelliti? Allora, il sistema Copernicus va visto come un sistema di check-up completo dell'ambiente e le varie sentinelle, così come le chiamiamo, questi satelliti speciali, hanno ciascuno il compito di tenere sotto controllo un certo numero di parametri ambientali. Quella che lanciamo il 22 aprile, la sentinella 1B, è particolarmente adatta per aiutare durante, per esempio, le catastrofi ambientali e per la sorveglianza del traffico marino, quindi da un lato l'ausilio al traffico marino, ma anche, come diceva lei, ha fatto degli esempi rilevanti, il controllo, per esempio, di attività illegali di inquinamento. Controllo dunque sotto varie, diciamo, sfaccettature, un controllo che costa. L'operazione industriale e appunto scientifica dell'Agenzia Spaziale Europea giustamente è sottoposta regolarmente a dei controlli molto stretti perché sono investimenti importanti. Vale la candela? Allora, innanzitutto non c'è dubbio che parliamo di investimenti importanti. Su diversi anni questo programma ha oggi un budget di oltre 7 miliardi di euro. per un totale di una flotta di 20 satelliti, ne vale la pena. Ne vale la pena per tre motivi. Innanzitutto non va vista come una spesa, ma come un investimento sul nostro futuro, sulla conoscenza di nuovo di quello che succede al nostro ambiente, diciamo, le cui risorse saranno sempre più scarse con l'aumento della popolazione. È un investimento in termini di occupazione. Un esempio per tutti, la sentinella che lanciamo il 22 aprile, l'industria capocommessa è un'industria italiana, a dimostrazione che l'Italia fa bene in Europa, in un contesto europeo internazionale, che sappiamo essere competitivi. E da ultimo vale la candela perché studi indipendenti hanno dimostrato che per ogni euro di investimento in questo programma si ha un ritorno economico di 10 volte tanto, di 10 euro per ogni euro investito. Insomma, un'Europa all'avanguardia in un settore che tante volte quasi crea stupore raccontare come appunto molti dei grandi progetti siano poi costruiti materialmente dalle nostre parti, con questa espressione naturalmente lo concepisco in senso allargato. Una battuta in conclusione, da Torino a Marte attraverso ExoMars, naturalmente non c'entra con le sentinelle, ma c'è un altro grande progetto che ha molto di italiano. Senz'altro, ExoMars, che abbiamo lanciato meno di un mese fa e che è nel suo viaggio verso Marte, dove arriverà in ottobre, è un altro esempio di successo italiano. Di nuovo l'industria capocommessa è italiana, e è un altro esempio di successo italiano in un contesto europeo. Quindi coloro che pensano che l'Italia per contare deve restare chiusa in casa, beh, dicono qualcosa che è in conflitto con la mia esperienza quotidiana. L'Italia deve investire tanto sulla ricerca e come dire, ricordarsi che effettivamente abbiamo tanti ottimi ingegneri al lavoro in tutto il mondo, tra i quali appunto Guido Levrini, che ringrazio, lo ricordo, program manager di ESA. Dunque, e approfitto per ricordarvi anche esa.int, potete vedere una quantità notevolissima di immagini, filmati, insomma la fantasia e la tecnica si combinano. Grazie. In quasi conclusione abbiamo lo spazio ancora per un servizio che ci riporta a un tema che stiamo seguendo con attenzione: le adozioni internazionali. Il governo ha annunciato a breve una riforma della legge sull'adozione internazionale. Radio 24 continua ad occuparsene. Oggi vi raccontiamo la storia di 21 coppie. Immaginatevi di volere un figlio. Immaginatevi che ci sia un bambino che può essere adottato. Fate le valigie, arrivate all'orfanatrofio e incontrate Vladimir di 3 anni. Ma poi vi dicono che era tutto falso. È accaduto a Fabio Selini e ad altre 20 coppie di genitori italiani. Noi arriviamo in Kirghizistan, visitiamo l'orfanotrofio, incontriamo il bambino, trascorriamo con lui 7 giorni, viene al parco con noi, fa il riposino pomeridiano con noi per poi rientrare in istituto, per poi venire a scoprire mesi dopo che era tutta una farsa, che il giudice era in realtà un attore, chiamiamolo così, un complice, e che tutto quanto la nostra udienza era assolutamente falsa. I vertici dell'ente italiano a cui questi genitori si erano rivolti, Airone Onlus, sono stati iscritti nel registro degli indagati. L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. L'ente non è più autorizzato a operare e a chi, come la presidente della commissione, parla genericamente di opacità, rispondono così. Non ha mai senso parlare di opacità dal mio punto di vista, e men che meno in maniera generica. Nel caso qualche soggetto, qualche protagonista del mondo adottivo non rispetti regole, non rispetti, o peggio non rispetti leggi, e ci sono gli organi competenti, ci sono le misure per poter agire. Il resto, francamente, mi pare un uso così un po' improprio degli aggettivi, ecco. Forse qualcuno risarcirà un giorno i soldi che questi genitori adottivi hanno speso. Nessuno, ovviamente, li risarcirà mai del danno morale che hanno subito. Non le nascondo che la sera il pensiero su cosa stia facendo questo bambino e gli altri bambini corre sempre. Sarebbe strano il contrario. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Continueremo ad occuparcene. Intanto viabilità, poi naturalmente Mario Palatero con America 24. Noi ci sentiamo tra circa 15 minuti.